Rock FM. Rock FM. Milano. Italy. Rock FM, sono le 8 spaccate. Iniziamo la seconda ora, vai. Burro e rock and roll. Questa è la nostra colazione fino alle 9. La tua colazione rock. La squadra Spadino, l'Ariele e Freak. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ma soprattutto gli amici e le amiche là fuori, quelli che sono già tornati al lavoro, così all'alba del 3 di gennaio, restate con noi, siamo in squadra insieme, continuiamo ad attendere le vostre testimonianze, i vostri commenti via SMS, su qualsiasi cosa, siamo a puntate libere, queste prime puntate del 2008, l'anno della svolta. Volevo segnalare di non prendere sotto gamba gli spot con la possibilità di diventare musicisti rock con la bocca, già in tanti si sono iscritti al nostro provino al 335-100-7777. Caro amico, cara amica, fallo anche tu al volo, altrimenti qua la lista è già lunga. Tra l'altro, redazione, potremmo farlo oggi il provino per diventare, lo facciamo nel corso della puntata, ok, va bene, me lo segno, mo segno. Bigger than you, and you are not me. Believe- Benissimo, e conoscendo la DJ Ariele vorrei... Come la DJ Ariele? Il DJ Ariele, ha detto là. No, conoscendola lei, DJ Ariele, no, conoscendola sul io... Sul voi un po' mi piace. Conoscendo... Sì? Mi scusi. No, no, assolutamente, no, no, ma... Procedo senz'altro con sentimento positivo perché so di farle cosa gradita. Con i nati del giorno. Che bello! Giovedì 3 gennaio. Sì, sì, sì, ma sì. Comunque era il 3 gennaio, a quando parte il giovedì. Nasceva nel 1920 il grande Renato Carosone, che le ricordo. Sì. Renato Carosone, cantante, pianista, sì, e compositore ironico, satirico, sì, italiano, uno dei pochi grandi geni, certo, della comicità in musica. Oltre a Fricantoni. Oltre certo, a Fricantoni e ai Pei, diciamo, grazie, doveroso, Pei, doveroso. Esatto, e oltre al suo coetaneo e coevo, il grande Fred Buscaglione. Ah, nell'Italia, sì, degli anni 50 due erano i protagonisti della musica comica e ironica, erano Fred Buscaglione e Carosone. Esatto, uno per il nord e uno per il sud. Si ricorda qualcosa di Carosone? Stuvo fall'americano. Wait. Americano, americano, ma sei nato in Italia, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Senta qui un altro grande del nostro paese, nasceva nel 1929, il 3 gennaio, Sergio Leone, l'inventore dello spaghetti western, yes, l'orgoglio del cinema italiano nel, sì, mondo. Nel mondo, che ha realizzato film straordinari. Guardi, per un pugno di dollari, sì, per qualche dollaro in più. Il buon, il brutto e il cattivo, bellissimo, capolavoro straordinario. C'era una volta il West, giù la testa. E poi c'era una volta in America... Un film interessante, forse un filo lungo e lento, ma insomma. Ma si mette a fare le pizze al compleanno di Sergio Leone? No, no, no, Sergio Leone è un grande, non si tocca, non si comunque... Purtroppo moriva nel 1989. Passiamo a un altro invece grande rocker, il mitico bassista dei Led Zeppelin, Joe Paul Jones, che nasceva oggi nel 1946. Auguri al grande John Paul Jones. Un altro grande, non rocker, un attore statunitense. 1956 nasceva Mel Gibson. È l'inventore della mitica sei corde. No, è viva. È tornato Mike, buongiorno, buongiorno. Esatto, buongiorno. Mike. Buongiorno. No, Mel Gibson è un attore. No, lei si sta confondendo col cognome, forse, Gibson. Andiamo, Gibson altro non può essere se non la mitica sei corde che ha, sì, conteso il palio tra... alla grande stanza. Stratocaster. Stratocaster. No, Mel Gibson, Mad Max, Arma Letale, Braveheart, se non li ha mai visti. Peggio per lei. Attore, regista e, sì, sceneggiatore americano. Tornato, Frec. Ogni tanto la piglia Mike, buongiorno. Ma non capisco, ogni tanto si ho delle strane vibrazioni. Le vibrazioni Mike, le Mike Vibration. Chiudiamola, prego, questo 3 di gennaio con l'ultimo posso compleanno. Posso concludere? Ma deve. Il 3 gennaio, sì, del 1969, sì, nasceva... Michael Schumacher, pilota automobilista tedesco. Questo era un intervento futurista. Grazie, se ne è accorto. Sì, sì. L'ha apprezzato? Complimenti, complimenti. L'ha apprezzato? Molto. Veramente, no, l'ha apprezzato? No, non l'ho apprezzato. Per niente, per la ringrazio. Niente. Scusi. No, no, sono abituato, sa. Ah, sono abituato. Ah, ah, sono ben abituato. Inside myself and see my seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. In nero, come direbbero i miei amici fiorentini. Painted Black, Rolling Stones. Questa è pane, burro e rock and roll, la colazione di Rock FM, dove insomma, se siete degli abitué del nostro servizio colazione, succede un po' di tutto, no? Insomma, già c'è Freak che combina casini e soprattutto c'è la redazione che mi segnala i vostri messaggi. Qui da un momento all'altro si decide al volo la diretta che state ascoltando, il tutto per annunciare una telefonata abbastanza particolare, una di quelle telefonate che, se si dovessero seguire le regole radiofoniche, non andrebbe fatta. Non so, ci sono delle regole non scritte per le quali queste cose non bisognerebbe farle, però è arrivato il messaggio di una radioascoltatrice genovese, Marina. Secondo me anche questa cosa, che è il 3 di gennaio, quindi insomma si cambia l'anno, ci siamo fatti prendere da questo messaggio e volevamo chiacchierare un po' in diretta con Marina. Ciao Marina, benvenuta, pane, burro e rock and roll. Ciao ragazzi. Buona giornata. Buona giornata. Allora, introduco io la telefonata, vediamo se sì, funziona dai. Bene. Marina è una fumatrice accallita. Accannita. Con i calli invece, accallita. Fuma da tantissimo tempo e tantissime sigarette. Ok? È vero. È tutto vero. Da 14 anni che fumo. Ho iniziato per fare la fighetta, perché certo, avevo 47 anni in quei tempi, eravamo tutti molto fricchettoni, certo, non tacitoni, esatto. E adesso ne ho 47. Succede questo, Marina si sveglia stamattina. Mi rotta le palle di farmi del male. Alle 6 di stamattina ha deciso smetto di fumare. Allora, sì, queste cose solitamente non si fanno, Marina, un po' per non portar rogna, perché poi se poi non ce la fai, ci sentiamo. Ma ce la devo fare, perché io faccio una vita talmente di cacca, talmente dura, che un po' di cacca in più. Guarda. Cosa cazzo mi cambia? Niente, ce la devo fare perché io rischio l'ictus, capite? E non posso rimanere. Allora, affrontiamo la questione, Marina. Allora, noi ti stiamo dietro, nel senso che nelle prossime puntate vediamo di ceccare cosa succede. Però, spinta in più per me. Però, perdonami, tu vuoi passare da 40 sigarette a zero? E io ci provo così, perché non so fare, io non posso via di mezzo, diminuire, no. Non ce la farò mai, sono proprio una tabagista schifosa, no? Okay. Devo assolutamente provare, però sono una donna, mi sento forte, guarda, si fa il mazzo tutto il giorno e io ti seguirò con la coda con la coda di paglia, come si suol dire, perché dovrei farlo anch'io. Però volevo così far sposare a pane, burro, rock and roll la causa di Marina, che vuole smettere di fumare. Magari c'è qualcuno a casa che l'ha già fatto, che c'è già passato, che ha qualche consiglio. Perché guarda che è vero che ti senti forte tutto, ma affrontarla così adesso, sto parlando da... Io ho una sorella di 30 anni che adoro, una figlia di 26 che adoro, e più di tutti adoro mio nipote Edoardo, che ha 7 anni. E vuoi fare? E loro tre sempre a dirmi smetti di fumare, di dire l'ictus. Certo. E adesso mi sono convinta, inizia l'anno, il 3 di gennaio, guarda, puntata. Io mi butto, vediamo allora cosa riesco a fare. Io mi butto. Guarda, noi siamo con te, cara Marina. Grazie. Ti stiamo vicini, vediamo cosa succede. Tra l'altro tu scrivi che senti la radio tutto il giorno, quindi sì, insomma, farò sapere anche ai colleghi, insomma, di strizzare un occhio se arriva un sms di Marina un po' in sbattimento. Magari ti mettiamo il brano giù. Può anche darsi che vi scriverò che magari sto male, ma io partecipo. Guarda, Marina, beh, noi siamo pronti a tutto. Qua pane, burro, rock and roll si piglia così. Tipo che se domani già ci hai ripensato, a noi va bene, no problema. No, non posso mollare così. No. Però ci proviamo. Dai, Marina, ci proviamo. Io mi butto. Dalle 6 di stamattina ha smesso di fumare. Senti, hai dei pacchetti già lì o... Allora, io ho preso i due pacchetti che mi ero comperata ieri e li ho buttati nel sacchetto della spazzatura sul poggiolo. E ho intenzione di portar via il sacco, adesso devo uscire. Io stamattina sarei già dovuta essere a lavorare, ma me la sto proprio prendendo alla genovese con calma. Ok. E porto via il sacchetto, lo butto subito nel... Perfetto. Nel coso. Insomma, qua se devi iniziare, per come sono fatta io, è meglio guarda, lo faccio così. Le motivazioni ci sono, lo spirito sembra quello esatto. Noi ti facciamo una bella strombazzata di Mister Trombetta e ci sentiamo tranquillamente, senza problemi, nei prossimi giorni. Okay, ci fai io sapere. Vi ringrazio. Tranquilla, anche se sei nervosetta, noi ci va bene anche così. Che cazzo di roba, bene. Marina, siamo in squadra con te. Grazie, ciao. Grazie. Io mi sento già più forte. Ciao. A tutti. Ciao. Oh, via pane, burro, rock and roll. Le decisioni si prendono così, come ha fatto Maria. Oh, smette di fumare, noi siamo con lei. Vediamo. Oh, puntata 153, vediamo quanto resiste. 335-100-7777. L'SMS di pane, burro, rock and roll. Lui invece, beh, l'avete già riconosciuto. È Jimi Hendrix. Senti che attacca. Batteria, vai. Vai, adesso. Well, she's walking through the crowd with a circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, that's all she ever thinks of. Scusate, mi sto allenando a fare batterista rock con la bocca, perché oggi è la giornata buona, riprendiamo anche con i provini per diventare musicisti rock con la bocca. 8 e 20 minuti primi, io sono contento della reazione dei radioascoltatori di pane, burro, rock and roll, che sono sempre una sorpresa. Ogni volta che in queste 150 puntate abbiamo mandato in diretta qualcuno con un problema, tra virgolette, vi siete scagliati contro come degli assatanati, perché siete rock. Invece la telefonata di Marina, grande solidarietà arriva, cara amica genovese, dagli amici di Rock FM. Velocemente te ne segnalo un paio. Questo amico ha smesso di fumare dopo 25 anni con una seduta di ipnosi, è stato facile. Poi abbiamo ben più di una segnalazione riguardante un libro. Io, Marina, te lo dico, secondo me, perché ti abbiamo sentito preparata, però effettivamente facciamoci aiutare, via, insomma, se sei interessata ci deve essere questo libro che mi hanno segnalato più di uno. quindi potrebbe essere garanzia di funzionamento di questo libro. Il libro è di Allen Carr, di Allen come Woody Allen e Carr come macchina con due R, e presumo si intitoli "È facile smettere di fumare se sai come fare". Ben 4 sms citano lo stesso libro, quindi Marina, insomma, vediamo, poi ci sentiamo nei prossimi giorni. L'unico consiglio per Marina è non fumarne neanche una, non c'è altro modo. Se cedi anche una volta è finita, Saverio. C'è solidarietà, mi piace, molta solidarietà da parte dei radioascoltatori, complimenti, mi piace, siamo orgogliosi di voi. Quasi quasi prendo spunto da Marina, io divento vegetariano. Luca da Firenze. Vabbè, dai, c'è un test attitudinale in preparazione. Rilassatevi con Lay Your Hands on Me. Poi arriva la domanda, andiamo ad azzeccarla oggi. Che vi svolta la giornata. Hey, buongiovi! arrivato il test attitudinale. Può interessare? È arrivato il test attitudinale della puntata odierna. Donne, pane, uomini. Pane, pure rock'n'roll, una domanda per voi. Tre possibili soluzioni. Esatto, una sola risposta esatta. Giovani rockettari due e rockettare. Due punti per la vostra patente da vero rocker. È arrivato l'arrotino col test attitudinale. Ho fatto confusione. Sì, mi tuffo sulla domanda di oggi. Oggi parliamo di Baba O'Reilly. Esatto, la grandissima... Non vado oltre. Il classico degli Who. Contenuto in Who's Next, brano che ricordate anche come sigla iniziale della serie televisiva CSI New York. Ma sapreste, cari miei, là fuori, dirci il perché del titolo Baba O'Reilly? Vediamo. Ipotesi A. Baba O'Reilly è un omaggio della band degli Who ai dolci napoletani che gli vennero fatti scoprire dal loro amico Terry Riley. La traduzione giusta sarebbe, per quanto strana, i Baba di Riley. Oppure, ipotesi B, Baba O'Reilly è il titolo di una fortunata serie televisiva inglese dell'inizio degli anni 70, una sorta di sequel noir. Sembra che gli U non perdessero nessuna delle puntate, al punto da costringere i roadies durante le loro tournée a registrare le puntate stesse per poi rivederle dopo ogni concerto. Oppure infine ipotesi C, Baba O'Reilly è una forma di tributo ai personaggi che hanno ispirato il testo e la musica. Il testo è riferito alla vita e alla filosofia di Meher Baba e la musica ricorda molti brani di Terry Riley, un minimalista compositore contemporaneo. La soluzione? Come al solito ve la diamo fra poco, e cioè la risposta esatta poco dopo.